Gentili ascoltatori e ascoltatrici, un cordiale saluto a tutti. Il tema di oggi ha lo scopo di chiarire un equivoco che è alla base di tanta confusione religiosa. Esamineremo la parola Dio. Nell'ambito religioso, i termini usati più frequentemente sono di solito quelli meno compresi. Questo fatto crea non pochi problemi alla comprensione della parola di Dio e notevole difficoltà sia nella partecipazione della propria fede, sia nella reciproca comunione fraterna. Se il termine in questione fosse un apax, cioè una parola che viene usata un'unica volta, sarebbe normale una certa indeterminatezza. Ma dal momento che la parola che prenderemo in considerazione e che crea tanti problemi è il termine Dio, c'è davvero motivo di stupirsi. Consideriamo quindi le difficoltà e le possibili chiarificazioni in relazione a questa parola. Fino alla venuta di Gesù non vi erano problemi in relazione alla fede nel Dio di Israele. Dio era uno. Il suo nome proprio era Yahvé. Egli aveva dimostrato la sua potenza e il suo amore nel liberare il popolo di Israele dalla fornace d'Egitto. Era l'Onnipotente. E ogni altro Dio andava considerato falso, inesistente. Quando gli ebrei si riferivano a Dio, avevano dunque le idee chiare. Con la sua venuta sulla terra, Gesù ha complicato le cose. Egli si presenta come il Dio di Israele, afferma di avere un padre che è Dio, rivela che lo Spirito Santo è Dio. Tre persone in un unico Dio. Non solo. Gesù rivela che queste tre persone sono uguali in quanto natura e attributi, ma distinte come persone. Non è il fatto che queste tre persone siano uguali come natura che complica le cose, bensì che lo Spirito Santo, il Padre e il Figlio siano tre persone distinte pur sussistendo nello stesso Dio. Ciò produce nel credente un ricorrente interrogativo. Quando leggo la parola Dio nelle Scritture, questo termine a chi si riferisce? Al Padre? Allo Spirito? Al Figlio? O a tutti e tre? Così, un termine apparentemente chiaro e a prima vista inequivocabile, come Dio, diventa uno dei più enigmatici e incompresi tra quelli impiegati dalla Scrittura. Cerchiamo quindi di sviscerare la parola Dio nell'ambito della Scrittura. Il termine Dio a volte è riferito alla prima persona della Trinità, cioè al Padre. Leggiamo in Romani al capitolo 15 e versetto 16. Affinché con una sola mente e una sola bocca glorifichiate Dio, che è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Leggiamo ancora in 1 Corinzi al capitolo 15. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. E ancora nella lettera agli Efesi al capitolo 1. Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Questi tre versetti hanno in comune una cosa. Definiscono Dio, il Padre, in relazione a Gesù Cristo. Solo così possiamo essere sicuri che il termine Dio sia riferito al Padre. Ogni altro termine Padre che troviamo nelle Scritture non è automaticamente attribuibile al Padre Gesù, come per esempio leggiamo in Filippesi capitolo 4 e versetto 20. Ora, al mio Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. In questa affermazione Paolo non fa una confessione di fede specifica, perché il suo Dio lo è tanto Gesù come il Padre e lo Spirito. Inoltre, la paternità di Dio non è esclusiva solo della prima persona della Trinità, perché Gesù si è spesso identificato col Padre. Due sue affermazioni sono sufficienti. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In quel viene, Gesù afferma di avere la stessa natura del Padre e di essere quindi come il Padre. Inoltre, io e il Padre siamo uno. Gesù è distinto dal Padre, eppure egli ha affermato di essere uno con il Padre. Questa ultima affermazione necessita di un chiarimento. Nell'ebraico vi sono due parole che significano uno. Queste parole sono haikit, che indica una unità assoluta, e akat, che indica una unità composta o collettiva. Per quanto riguarda Yahweh, l'Iddio dell'Antico Testamento, viene usata la parola akat, che denota appunto una unità collettiva, plurale. Per comprendere la differenza tra unicità assoluta e unicità plurale, occorre pensare alla differenza che passa tra una mela, un tavolo, una casa, e un grappolo d'uva, una famiglia e un gregge. Le prime tre immagini evocano una unicità assoluta, le altre tre immagini una unicità collettiva. È evidente che ogni immagine umana per raffigurare Dio è insufficiente e relativa. Dio non è composto, ma gli elementi servono solo a chiarire la differenza che esiste tra una unicità assoluta e collettiva o plurale. Gesù, quindi, è uno con il Padre, non nel senso che sono la stessa persona, ma che ha la stessa natura del Padre, mantenendo però la sua personalità. Un esempio di come viene applicata questa parola l'abbiamo nel matrimonio. Ecco cosa leggiamo nel libro della Genesi. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Gli sposi sono e rimangono due corpi separati, ma una sola carne. Nella parola di Dio, a volte il termine Dio viene riferito a Gesù Cristo. Troviamo questo nei seguenti passi. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 e versetto 1. Nel principio era la parola e la parola era presso Dio e Dio era la parola. Ancora in Seconda Pietro al capitolo 1. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Infine leggiamo in 1 Giovanni al capitolo 5, versetto 20. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. È molto strano come alcuni possono negare la divinità di Gesù. Il messaggio dei primi cristiani era centrato sulla divinità di Gesù. Le loro lettere rivolte ai credenti avevano lo scopo di proclamare che Gesù Cristo è Dio e che Lui era degno di ogni lode e adorazione. Gesù è stato invocato, adorato come Dio, proprio da quei giudei che non avrebbero mai adorato altra divinità all'infuori di Yahweh. Inoltre il termine Dio nella Bibbia è riferito anche allo Spirito Santo. Leggiamo questo nel libro degli Atti al capitolo 5 e versetto 4. Se questo campo restava invenduto, non rimaneva tuo? E il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. In tutta la Scrittura notiamo che lo Spirito Santo ha gli stessi attributi di Dio. In questo episodio, Pietro riconosce che mentire allo Spirito Santo equivale al mentire a Dio. Inoltre, il termine Dio nella Bibbia è riferito anche alla Trinità. Leggiamo questo in 1 Corinzi, al capitolo 8 e versetto 6. Per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi in Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo di Lui. Paolo si riferisce ad un solo Dio e ad un solo Signore. È fuori discussione che un solo Signore sia Gesù Cristo, mentre non è chiaro a chi è riferita l'affermazione un solo Dio. Sembra che un solo Signore e un solo Dio siano due persone distinte, e se così fosse avremmo un Dio che non è Signore e un Signore che non è Dio. Se così è, Gesù non è Dio perché è solo Signore. Inoltre, Dio è chiamato Padre, e se di Padre ce n'è uno solo, dal quale sono tutte le cose, allora, a maggior ragione, possiamo dedurre che Gesù non è Dio, che ha creato ogni cosa. La spiegazione è la seguente. Quando Paolo afferma che c'è un solo Dio, sta sostenendo che vi è una sola Deità, la Trinità, che è paterna, in quanto ogni cosa procede da tutte e tre le persone della Trinità. Vi è un solo Signore, perché Gesù Cristo è colui al quale le creature devono rendere ragione. Leggiamo ancora in 1 Timoteo, al capitolo 2 e versetto 5. Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Paolo sostiene che vi è un solo Dio. Un'affermazione del genere, presa nel senso più immediato, porta a concludere che Gesù Cristo non sia Dio, perché Egli è il solo mediatore. Vi è un solo Dio nel senso di Deità, Trinità. Gesù Cristo è colui che mette la creatura in rapporti amichevoli con essa. Leggiamo ancora in Efesini al capitolo 4 e versetti da 4 a 6. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Il Dio unico e Padre di tutti, a cui fa riferimento Paolo, non è il Padre, la prima persona della Trinità, ma la Trinità stessa, l'unico Dio nel quale i cristiani credono. Dobbiamo anche notare che nell'Antico Testamento troviamo altresì la parola Dio scritta con l'iniziale minuscola, diversamente dallo stesso termine scritto con l'iniziale maiuscola. Ciò sta a significare che in ebraico il termine è El, il quale, oltre ad essere la forma abbreviata di Elohim, indica la divinità, il divino, non sempre necessariamente riferito al Dio d'Israele. Ecco cosa leggiamo in Esodo al capitolo 7. L'Eterno disse a Mosè: «Vedi, io ti faccio come Dio per il Faraone, e tuo fratello Aronne sarà il tuo profeta». Yahweh aveva quindi costituito Mosè come un El, cioè una divinità per il Faraone. Leggiamo ancora nel Salmo 81. «Non vi sia in mezzo a te alcun Dio straniero, e non adorare alcun Dio forestiero». Yahweh ordina al popolo di Israele di non avere altre divinità. La parola El sta anche a significare una divinità che non è il vero Dio, un Dio che non esiste, un non Dio. Ecco cosa leggiamo nel libro del Deuteronomio. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, a dei nuovi, apparsi di recente, che i vostri padri non avevano temuto. Queste valutazioni ci costringono a fare alcune precisazioni, perché il vocabolo Dio è impersonale, vago. Quando un uomo professa di credere in Dio, al massimo comprendiamo che egli non è ateo, che è un religioso, ma non abbiamo nessuna nozione chi sia questa divinità. Il cristiano, il musulmano, credono ambedue in Dio, ma da un esame anche non approfondito scopriamo che non è lo stesso. Affermare quindi di credere in Dio equivale a fare solo una professione di fede religiosa e in taluni casi molto vaga. Così vale anche per ciò che concerne il popolo ebraico. Dichiarare che gli ebrei credevano in Dio rendiamo una testimonianza impropria, imprecisa. I santi dell'Antico Testamento non credevano in Dio, ma in Yahweh. Che Yahweh sia Dio è fuori discussione, ma dichiarare che gli ebrei credevano in Dio equivale a spersonalizzare la loro fede. Per i primi cristiani, Yahweh è una precisa persona della Trinità, Gesù Cristo. Con il termine Dio ci riferiamo alla Deità, nella quale sussistono tre persone. I santi dell'Antico Testamento non credevano in Dio Padre, perché l'esistenza del Padre ci è stata rivelata solo da Gesù Cristo. La stessa problematica sorge per chi ha creato il mondo e l'uomo. Se affermiamo che Dio ha creato l'uomo, facciamo una dichiarazione incompleta e da un certo punto di vista deviante. Chi ha creato l'uomo e ogni cosa è attribuito a Yahweh, una delle tre persone della Trinità, cioè il Cristo, e non un genericamente Dio. Questo è il messaggio degli Apostoli. Che Yahweh sia Dio è innegabile. Quando leggiamo che l'Eterno Dio, cioè Yahweh Elohim, fece la terra e i cieli, non dobbiamo ravvisare nelle due parole Eterno Dio due sinonimi, ma un'affermazione della divinità di Yahweh. Perciò, affermare che Dio ha creato l'uomo porta l'ascoltatore a pensare che anche il Padre e lo Spirito Santo siano il Creatore. Distinguere le tre persone della Trinità nella loro opera è indispensabile. Altrimenti, dal momento che Gesù Cristo è Dio, possiamo dire che Dio è morto in croce e nella parola Dio noi identifichiamo il Padre e lo Spirito. In definitiva, si arriva ad asserire che in croce è morto anche il Padre e lo Spirito. Proprio perché la parola Dio non ha un unico senso e un'unica collocazione, quando non è specificata, dobbiamo dare ad essa il significato di divinità. Questo è l'uso più comune che ne fa la Scrittura. Perciò, la predicazione del cristiano non ha tanto lo scopo di infondere nell'ascoltatore la fede in Dio, quale divinità, ma piuttosto in Yahweh, in Gesù Cristo. L'uomo è disposto anche a credere in una divinità che lo ha creato, che lo ama, che si cura di lui, perché nel profondo del suo cuore sa che c'è qualcuno. Ma quando diamo a questo qualcuno il volto preciso di Gesù Cristo, poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, quando Gesù chiede all'uomo in modo specifico di perdere la propria vita per amor suo, quando afferma che essere religiosi non basta per accedere a Dio, allora, davanti ad un Dio specifico, con un altrettanto messaggio specifico, l'uomo sente per natura tutto l'impulso del rifiuto. Quel rifiuto che Adamo ed Eva hanno manifestato nel giardino dell'Eden. Se i cristiani del XXI secolo non hanno le idee chiare, se non considerano attentamente i termini del vocabolario biblico, se non specificano la loro fede nel Dio pluripersonale, non in quanto a natura, quanto al numero, saranno coinvolti nel sincretismo religioso che precederà il ritorno di Cristo. Infatti, nel Vangelo di Luca leggiamo la solenne domanda di Gesù: quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Questo interrogativo non è forse rivolto a chi ha fede in Cristo? Saranno i cristiani in grado di proclamare fino al ritorno di Cristo l'unica vera fede nell'unico Dio vivente e vero? Che così sia. Amen.